GR24, il sole 24 ore. Berlusconi alla giornata mondiale del risparmio, la ripresa è cominciata, i dubbi del governatore Draghi. Nucleare, l'Iran decide di collaborare sia allo scambio dell'uranio. Diffuso dalla procura napoletana un video shock per incastrare il killer di un pregiudicato ucciso in pieno centro. Calcio stasera contro il Palermo, l'Inter vuole rispondere alla Juve. Buongiorno dalla redazione di GR24 da Maria Piera Ceci. In primo piano la giornata mondiale del risparmio, l'avete sentita nella lunga diretta che abbiamo dedicato al tema, le parole del governatore di Banca Italia Draghi e del ministro Tremonti. Un punto della mattinata con Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno, sono diversi segnali di ottimismo sul futuro dell'economia arrivati qui dalla 85esima giornata mondiale del risparmio. Il peggio della crisi sembra essere alle nostre spalle, scrive in un messaggio il presidente del Consiglio Berlusconi, che aggiunge sembra essere iniziata pur lentamente la ripresa. Poi il governatore della Banca d'Italia Draghi, la caduta si è fermata, la fase più acuta della crisi è superata, dice il numero uno dell'Istituto di Via Nazionale, che tuttavia auspica nuove regole e riforme efficienti per il sistema paese. Ma ascoltiamo Draghi. Siamo ora a una fase decisiva. Lo slancio che la cooperazione internazionale ha avuto nel concepire e nel disegnare nuove regole per la finanza del mondo deve tradursi in una loro attuazione rigorosa a livello nazionale, armonizzata sul piano internazionale. Questo è molto importante perché dalla crisi non si esce col protezionismo, tantomeno col protezionismo finanziario. Il nostro sistema bancario ha resistito alla crisi molto meglio di altri. Non va però allentata la guardia perché la situazione resta esposta a fragilità. Della necessità di regole più stringenti per il sistema finanziario ha parlato anche il ministro dell'economia. Tremonti ha riconosciuto che la crisi si è fermata, ma l'Italia deve continuare, ha fatto capire il ministro nel suo percorso virtuoso in fatto di conti pubblici. Poi da Tremonti una riflessione sull'eredità della crisi economica. Sentiamo. Ci sono due cose che ci devono oggettivamente preoccupare. Primo, il livello delle borse è tornato ante crisi, senza che i fondamentali dell'economia reale siano tornati ai livelli ante crisi. Secondo, la massa dei derivati non sembra in riduzione ma in aumento. Il sistema finanziario internazionale ha bisogno di nuove regole, dice infine sempre in un messaggio il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. E da Roma è tutto. Grazie Vincenzo Miglietta. Due notizie di agenzia. Dopo l'ipotesi di ieri sul mini taglio dell'IRAP per le imprese, arriva una bozza di emendamento firmato da 10 senatori di PDL e Lega, che prevede un taglio fino a 4 miliardi dell'imposta, quindi dell'IRAP. Il testo prevede che per le imprese fino a 50 dipendenti l'IRAP sia totalmente deducibile e sarà invece parzialmente deducibile anche per quelle oltre 50, ma in misura corrispondente alla quota percentuale di 50 dipendenti. Questa invece è una notizia che riguarda il pubblico impiego. Torna la lotta all'assenteismo. Il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta ha deciso di riestendere a 7 ore la reperibilità dei dipendenti statali in malattia. Le nuove fasce orarie saranno dunque per le visite fiscali dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18 in luglio. In questo senso c'era stato un passo indietro, come forse ricorderete. Ed ora il tema giustizia. Continua la protesta dei magistrati. Ci colleghiamo con il Palazzo di Giustizia di Milano, dove per noi Stefano Totoro, che sta seguendo l'assemblea milanese dell'Associazione Nazionale Magistrati. Stefano. Sì, buongiorno a voi e ai nostri ascoltatori. Quello di Palazzo di Giustizia di Milano diventa un po' il luogo simbolo della protesta dei magistrati, simbolo perché il presidente dell'ANM Luca Palamara ha scelto di essere qui oggi, simbolo perché spesso il botta e risposta fra potere politico e magistratura parte da Roma e rimbalza qui, dove si sono svolti e continueranno a svolgersi i processi che coinvolgono il presidente del Consiglio Berlusconi. Esprimo solidarietà dell'ANM ai colleghi di Milano, ha detto il presidente Palamara, solidarietà a Raimondo Mesiano. Non vorrei, ha detto Palamara, che ogni indumento di un magistrato possa diventare pretesto per screditare la categoria. Ma sentiamo le parole di Palamara prima dell'inizio dell'assemblea. Io mi auguro che oggi sia la giornata nella quale in tutta Italia i magistrati italiani facciano sentire con forza la loro voce. Noi ovviamente non vogliamo partecipare ad alcuna guerra, ad alcuno scontro, ma vogliamo con forza richiamarci a quelli che sono i valori consacrati nella nostra Costituzione, quindi all'autonomia e l'indipendenza e la soggezione soltanto alla legge. È questo che oggi vogliamo ribadire, lanciando un messaggio molto chiaro. Noi vogliamo una riforma della giustizia che realmente interessi i cittadini, cioè quella che faccia sì che i processi siano più veloci, non quella che invece ha carattere punitivo nei confronti dei magistrati. O sull'ipotesi di uno sciopero dei magistrati, Falamara ha detto si capirà solo dall'esito delle assemblee. Quanto alle proposte di riforma della giustizia circolate negli ultimi giorni, il presidente dell'ANM ha detto non sono le riforme di cui ha bisogno la giustizia. Grazie a Stefano Totoro. Naturalmente il tema giustizia continua ad animare il dibattito politico. Le ultime da Andrea Viali. Sì, non c'è soltanto lo scontro di cui abbiamo sentito con i magistrati a dividere maggioranza e opposizione in tema di giustizia, sono anche i provvedimenti allo studio per superare la bocciatura del lodo Alfano. I legali del Premier eletti in Parlamento stanno prendendo infatti in considerazione varie ipotesi, c'è quella di ridurre i tempi di prescrizione di alcuni reati non gravi commessi prima del maggio 2006, oppure quella di definire tempi certi per la durata dei vari gradi di giudizio dei processi, o ancora c'è il cosiddetto lodo Ghedini, che prevederebbe invece il trasferimento a Roma dei processi nei confronti delle più alte cariche dello Stato, quindi anche quelli nei confronti di Silvio Berlusconi, anche se questa terza ipotesi dobbiamo dire che stamattina è stata smentita sia dal Ministro della Giustizia Alfano sia dal portavoce del Premier Bonaiuti. E di giustizia stamattina ha parlato anche il segretario del PD Bersani, che si è detto preoccupato per i continui attacchi di Berlusconi alla magistratura, attacchi che Bersani ha definito picconate ad una casa comune. Linea allo studio. Grazie ad Andrea Viali. La pagina degli esteri con la decisione molto attesa dell'Iran di collaborare sul nucleare. Sentiamo. Proprio nel giorno della sua risposta definitiva alla bozza di accordo proposta da Russia, Stati Uniti e Francia per arricchire parte del suo uranio all'estero, Teheran manda un chiaro segnale di apertura. A poche ore dall'atteso incontro di Vienna, il presidente iraniano Mahmoud Ahmadinejad ha dato il via libera allo scambio di uranio. In un discorso trasmesso in TV, Ahmadinejad ha detto che le potenze occidentali sono passate da una politica di confronto ad una di cooperazione. Per questo possiamo collaborare, anche se ha aggiunto che l'Iran non rinuncerà assolutamente ai suoi diritti. Piano quindi con l'ottimismo, perché stando alle indiscrezioni dei media, la delegazione iraniana proporrà oggi due modifiche sostanziali. Spedire all'estero il proprio uranio gradualmente e non in unica soluzione. La seconda chiederebbe l'introduzione di uno scambio simultaneo, ricevere cioè in cambio del proprio combustibile una certa quantità di uranio già arricchito. Adif Atahali, Giro 24, Il Sole 24 Ore. E stamattina incontro in Vaticano fra il Papa e il nuovo ambasciatore dell'Iran, Ali Akbar Naseri. Fra i diritti universali, la libertà di religione e la libertà di coscienza hanno un posto fondamentale, ha detto Ratzinger, perché da esse derivano tutte le altre libertà. I respect the Supreme Court and I respect the rule of law. Secondo giorno del segretario di Stato americano in Pakistan, Hillary Clinton, l'avete appena sentita, è in una Lahore blindata dopo l'attentato di ieri a Peshawar con oltre 100 vittime. Si apre nel pomeriggio a Bruxelles il Consiglio europeo a cui non parteciperà il Premier Berlusconi, come sapete malato di scarlattina, sostituito dal Ministro degli Esteri Frattini. Fra i temi in agenda, cambiamenti climatici, l'immigrazione, ma soprattutto una discussione fra i leader europei sulla nomina del primo presidente UE. Nessuna investitura formale, comunque in attesa della ratifica del Trattato di Lisbona da parte della Repubblica Ceca. L'Italia, nonostante le numerose bocciature, da ultime quella dell'ex cancelliere tedesco Helmut Schmidt e del quotidiano Financial Times, sosterrà Tony Blair. Come conferma l'ambasciatore presso l'Unione Europea Ferdinando Nelli Feroci al microfono del nostro inviato Sergio Nava. Il fatto che le nomine non siano all'ordine del giorno non impedirà che nei corridoi del Consiglio europeo, nelle riunioni delle famiglie politiche che precedono il Consiglio europeo, l'argomento principale sarà quello delle nomine. E l'Italia sosterrà Blair, da quello che possiamo capire? L'Italia si è già espressa pubblicamente, lo ha fatto il Presidente del Consiglio in più di un'occasione, a sostegno della candidatura di Tony Blair. Oggi la situazione prevalente è di grande incertezza. Ci sono altri nomi che circolano. C'è la difficoltà anche di comporre un quadro complessivo in cui si deve andare a trovare un accordo anche sulla figura dell'alto rappresentante, vicepresidente della Commissione. Su questo l'Italia però non si è espressa, oppure ha un nome, diciamo, in serbo? L'Italia non si è espressa perché aspettiamo di vedere come evolve la discussione all'interno dei partiti politici e poi nel più tardi, quando ci saranno i contatti, neanche nei prossimi giorni, perché la decisione non verrà presa oggi. La cronaca: sono tornati in libertà i due romeni accusati di favoreggiamento per la latitanza dei loro 4 connazionali accusati dello stupro avvenuto a Guidonia. Scadenza dei termini di custodia. Per questo motivo Mugurel Goia e Ionut Barbu, i due romeni accusati di aver favorito la latitanza dei 4 connazionali accusati dello stupro di Guidonia, sono tornati in libertà. L'inchiesta sulla brutale violenza del 22 gennaio scorso ai danni di una coppia è chiusa, ma la procura di Tivoli non ha ancora chiesto il rinvio a giudizio. Dopo gli arresti domiciliari, i due erano stati sottoposti all'obbligo di dimora in una località del Veneto dove, ha assicurato il loro legale, resteranno in attesa del processo. Si sono sempre dichiarati innocenti, sostenendo di aver solo dato un passaggio in auto ai fuggiaschi, senza sapere che fossero gli autori dello stupro. Maria Luisa Pezzali, GR24, Il Sole 24 Ore. E ricordate forse domenica la morte del giovane panettiere su un'auto speronata da un'altra auto inseguita dalla polizia. Ebbene, questa mattina 3 moldavi sono stati fermati con l'accusa di ricettazione ed omissione di soccorso. Erano loro 3 a bordo della Mercedes, risultata poi rubata. La pagina sportiva, a partire dal sondaggio di oggi. Fabio Capello e le sue accuse al calcio italiano, schiavo degli ultra, trovano il conforto dei nostri ascoltatori. Era questo il sondaggio di oggi. Per il 90% di voi, i tifosi violenti condizionano le società calcistiche, come ha detto il CT della nazionale inglese. Una posizione che il presidente della Federcalcio, Giancarlo Abete, respinge nettamente. Dare dei giudizi to court, dividendo fra i buoni e i cattivi, dove si va allo stadio in un modo e dove in un altro, mi sembra onestamente riduttivo, perché a me non piace mai fare delle comparazioni, però ricordo che nella storia del calcio l'Inghilterra si è contrassegnata per lutti e atti di violenza che onestamente sono di gran lunga superiori ai pur tristi eventi che sono accaduti nel nostro paese. Bianco o Nero torna domattina alle 8:30 per votare radio24.it. Alessandro Milan, GR24, Il Sole 24 Ore. Dopo la sconfitta con il Bologna cambia l'allenatore del Siena, esonerato Marco Giampaolo. La squadra è stata affidata al tecnico della Primavera, Marco Baroni. E si completa questa sera con Inter-Palermo la 10ª giornata di Serie A. I nerazzurri devono rispondere alla larga vittoria della Juve. Chissà qual era il menù di ieri sera in casa Mourinho e se il tecnico portoghese ha preferito farsi, come qualche settimana fa, una scorpacciata di calamari piuttosto che guardare i 5 gol con cui la Juve ha schienato la Sampdoria. Curiosità gastronomiche a parte, ora non ci sono più dubbi. Saranno i bianconeri i rivali dell'Inter sulla strada del 5º scudetto consecutivo, diventato per Moratti il primo obiettivo stagionale. Convince l'assetto ad una sola punta, scelto da Ferrara per coprire le spalle a Diego. Diverte la manovra bianconera grazie a Camoranesi e Giovinco. E poi a Mauri è tornato l'implacabile bomba dello scorso anno. Dietro la Juve sono solo occasioni perdute, spento Jovetic, la Fiorentina non vince più e il Milan si fa riprendere nel recupero a Napoli mentre esplode il caso Ronaldinho, sostituito e scontento. Stasera tocca all'Inter rispondere 5 squilli bianconeri. Tornano Thiago Motta e Cambiasso contro il Palermo di quel Walter Zenga cui ieri Mourinho ha spianato la strada per la successione. Non sono io che controllo la società, però mi piacerebbe tanto. Io rispetto fondamentalmente perché la sua storia come allenatore è una storia un po' anti la storia dei grandi giocatori. E lui per arrivare a dove è arrivato adesso, in una squadra importante nella Serie A italiana, ha fatto il giro al mondo, no? Contro il Palermo la prima tappa di avvicinamento allo scontro diretto del 5 dicembre, perché difficilmente lo scudetto di quest'anno sfuggirà all'accoppiata bianco-nerazzurra. Massimo Di Scienza, GR24, Il Sole 24 Ore. Un video shock reso pubblico per tentare di prendere il killer di un uomo ucciso in pieno centro. Succede a Napoli e ne parleremo fra pochissimo. Nella prima parte di GR24 abbiamo parlato della giornata mondiale del risparmio. Berlusconi, la ripresa è cominciata, i dubbi del governatore Draghi che parla invece di riforme urgenti. Poi ancora giustizia, il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Palamara dice no al trasferimento a Roma dei processi alle alte cariche. Nucleare, l'Iran decide di collaborare, sì allo scambio dell'uranio. E ripartiamo dalla cronaca che ci porta a Napoli per un video shock di un omicidio reso pubblico. La Napoli del traffico, del rumore, la Napoli cinica dell'indifferenza. Ancora un video a raccontarci i due volti di una città. Un video da oggi reso pubblico dalla Procura per chiedere collaborazione, forse ancora una volta inutilmente. I due volti di Napoli in quelle immagini si intrecciano. Ecco cosa vedono i nostri occhi. Vestito di scuro, un uomo esce dall'antica caffetteria Vergini, quartiere Sanità. Sono le 16 dell'11 maggio. Comincia a far caldo. In strada il solito vociare. Il palo è accanto alla vittima, la indica con fredda lucidità. Lui, il killer vestito di scuro, raccoglie la segnalazione e tira fuori la pistola come se fosse un fazzoletto. Mariano Bacio Terracino, 53 anni, fuma una sigaretta ad un metro da lui, appoggiato al distributore di caramelle colorate. Lo guarda, forse in quella manciata di secondi capisce che sono gli ultimi della sua vita. L'uomo vestito di scuro tentenna qualche secondo. C'è una signora tra lui e la vittima, ha in mano un gratta e vinci. Non si rende conto, testa abbassata, lascia la scena del delitto. E poi sente il primo sparo. Bacio Terracino cade per terra sotto 5 colpi. E da qui osserviamo il volto dell'altra Napoli. Una bambina e il suo papà scappano. Un signore tira dritto senza accorgersi. Una donna si avvicina addirittura al cadavere, gli alza la testa, urla qualcosa, se ne va. Tra i due volti di Napoli resta impresso il secondo, quello dell'indifferenza. Il bar abbassa le saracinesche, per qualche minuto tutto si ferma, solo per un po'. Poi la Napoli del rumore riprende il sopravvento, senza pentimenti, senza dolore per la vittima numero 32 del 2009. Oggi quel numero è già cresciuto di almeno 15 unità. Com'è bella, la città è pure cenella. Anna Rita D'Ambrosio, GR24, il Sole 24 Ore. Ed ora andiamo invece a Lampedusa. Dal 1 di novembre il centro di accoglienza di Lampedusa chiuderà i battenti. Dopo anni di polemiche, battaglie, emergenze, dopo le fughe e la maxi rivolta di gennaio, ha di fatto reso superfluo il centro di raccolta più famoso d'Italia. Ormai, spiegano dall'isola, persino i migranti soccorsi in mare passano direttamente per la Sicilia. La notizia, tuttavia, non rallegra i lampedusani, sia perché molti non condividono la scelta dei respingimenti, sia perché la decisione di chiudere ha provocato l'immediato licenziamento dei dipendenti della società Lampedusa Accoglienza. Si parla di una cinquantina di posti di lavoro persi, sostituiti forse da una serie di contratti a chiamata in caso di emergenza. Il vice sindaco Gianni Sparma, PDL, è lontano dall'isola. Dice che certo la cosa è un problema, ma tutto non si può avere. Ma per Giuseppe Palmeri, operatore turistico e capogruppo del PD all'opposizione in comune, il nodo è un altro. Quando ci sono queste povere persone in mezzo al mare e che si lasciano due giorni, che non si sa se li deve accettare Malta o l'Italia, questo per noi non va bene. Perché se ci sono 30-40 immigrati, possono venire tranquillamente a Lampedusa dopo 24 ore, 48 ore, il tempo del riconoscimento, e possono essere trasferiti sulla terraferma. Paolo Piacenza, GR24, il Sole 24 Ore. Incidenti sul lavoro e tempo di bilanci per l'INAIL. In diretta Maria Chiara Grandis. Sì, buongiorno. A un anno dal commissariamento per il presidente dell'INAIL, Marco Sartori, che ha voluto fare un bilancio appunto sull'attività dell'istituto, è stato un periodo durante il quale sono migliorati i rapporti con le istituzioni e la credibilità dell'INAIL di fronte ai cittadini. Tutto questo è merito di un piano industriale che sarà completato entro fine 2009 e che prevede una gestione virtuosa del patrimonio immobiliare dell'istituto con un fondo per il risparmio, ma soprattutto investimenti per la prevenzione degli infortuni che riguarderanno anche le scuole. E poi la riabilitazione con la collaborazione delle ASL locali e l'utilizzo strategico di centri come quello di Budrio. Ancora il reinserimento lavorativo degli infortunati, punto più dolente perché i tagli al personale INAIL pesano, nonostante abbiano comunque permesso una riduzione dei costi di 33 milioni di euro in 3 anni. L'INAIL vuole anche impegnarsi in modo particolare per il recupero dei lavoratori disabili e il sogno del presidente Sartori è la creazione di una squadra nazionale, INAIL appunto, che partecipi alle Paralimpiadi a cominciare da quelle di Vancouver nel 2010. E da Roma è tutto. Grazie a Maria Chiara Grandis. Questi sono dati Istat. Le retribuzioni contrattuali orarie sono aumentate a settembre dello 0,7% rispetto ad agosto e del 3,1% rispetto a settembre 2008. Questo grazie agli aumenti previsti in 8 contratti rinnovati di recente, fra i quali quello dei metalmeccanici e del commercio. Nei primi 7 mesi dell'anno, segnala l'Istituto di Statistica, le ore di sciopero hanno segnato un calo del 68,7% rispetto allo stesso periodo del 2008. Succede in Francia, un cellulare d'emergenza per le donne picchiate dai propri mariti o compagni consentirà con un solo tasto di chiamare direttamente la polizia. L'annuncio da parte del ministro della giustizia francese. Il progetto pilota partirà il 23 novembre con una ventina di donne vittime in passato di violenze in famiglia. Al vertice della Chiesa Luterana tedesca arriva una donna, divorziata, madre di 4 figli, Margot Kaisman, 51 anni, vescovo di Hannover. Da ieri, come sapete, è il nuovo presidente del Sinodo della Chiesa Evangelica Tedesca. Katia Caramelli ne ha parlato con Domenico Maselli, presidente della Federazione Chiese Evangeliche Italiane. Noi la valutiamo positivamente perché crediamo che non ci siano differenze tra uomini e donne nella vita ecclesiastica. Tutti credenti, dopo Lutero, hanno il sacerdozio universale, secondo noi. Si tratta soltanto di incarichi che ognuno di noi può prendere e che non lo rendono superiore agli altri. In Italia abbiamo in questo momento alla testa della Chiesa Valdese una moderatora, una donna. Alla testa della Chiesa Battista una presidente, una donna. Alla testa della Chiesa Metodista una presidente, una donna. Quindi non possiamo che essere lieti di questa trasformazione, come del resto leggo anche molti cattolici tedeschi salutano questa elezione, che non è una papessa, sia ben chiaro, sì, infatti. Nessuno è papa tra noi. Secondo lei questa nomina può riaprire nel mondo cattolico un dibattito? Pensando come è aperta la Chiesa Cattolica in Germania, niente di negativo. Ci può essere qualche difficoltà invece nel quadro generale della Chiesa Cattolica sotto il pontificato di Ratzinger, però contemporaneamente ci sarà anche in Italia una forte discussione tra i cattolici di base. La benzina sale ancora, supera quota 1,33 euro, Shell ha ritoccato il prezzo di 0,5 millesimi portando il litro di verde a 1,334 euro. Si tratta del valore più alto raggiunto da oltre un anno. Dopo gli aumenti di Agip di ieri, oggi oltre alla Shell hanno aumentato il prezzo della verde anche Tamoil e Total. Nasce a Roma il più grande circuito cinematografico italiano, ce ne parla Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno dal Cinema Moderno di Piazza della Repubblica, dove è in corso la presentazione del marchio di un nuovo circuito cinematografico che ha appunto l'ambizione di essere il più grande d'Italia. Si chiama The Space ed è frutto della partnership tra 21 partner, società di private equity guidata da Benetton e il gruppo Mediaset. La nuova società ha rilevato parte dei cinema multisale in Italia, si sono unite infatti le attività di Medusa Multisale e di Warner Village Cinema con l'obiettivo di diventare leader nazionale in questo mercato. 252 sale cinematografiche con un potenziale di 15-16 milioni di biglietti staccati ogni anno, un fatturato di circa 125 milioni di euro, una quota di mercato del 16% che sale al 30% se si considerano solo i multisala. Questi i numeri di The Space che, come ha spiegato l'amministratore delegato Giuseppe Corrado, vuole modificare l'idea stessa di cinema da spazio chiuso legato alla sola fruizione del film a spazio che si arricchisce di nuovi servizi legati alla ristorazione, l'intrattenimento, la musica, lo shopping e lo spazio bimbi, perché dice Corrado lo spettatore deve essere coccolato. E da Roma è tutto, a voi la linea. Grazie Alessandra Schepisi, ed è tutto per questo GR24 curato e condotto da Maria Piera Ceci, in regia Carmelo Lauricella. Prossimo GR24 alle 14. GR24, il sole 24 ore, direttore Gianfranco Fabi.